Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer, traduzione di Bruno Dera. Masha tornò nel soggiorno. Herman andò in cerca del cappotto, del cappello, delle soprascarpe, ma non sapeva dove guardare. La moglie del rabbino, alla quale aveva consegnato ogni cosa, era scomparsa. La cameriera non si vedeva. Si aggirò tra la folla degli invitati nell'ingresso. Domandò a un uomo dove fossero i cappotti, ma quello si limitò a una spallucciata. Herman entrò in biblioteca e si lasciò cadere su una poltrona. Qualcuno aveva lasciato mezzo bicchiere di whisky e parte di un sandwich su un tavolino. Herman mangiò il pane e il formaggio maleodorante e beve quel che restava del whisky. La stanza gli girò attorno come una giostra. Una rete di macchie e di linee gli oscillava davanti agli occhi, degli stessi colori fiammeggianti che vedeva a volte premendosi le palpebre con le punte delle dita. Tutto sembrava baluginare, tremolare, cambiare forma. Persone facevano capolino alla porta, ma Herman in realtà non le vedeva. Le loro facce nuotavano qua e là, indistinte. Qualcuno gli rivolse la parola, ma la luce sembrava di avere le orecchie piene d'acqua. Dondolava su un mare tempestoso. Com'era strano che esistesse un ordine in tutto quel caos. Le forme che vedeva erano tutte geometriche, anche se deformate. I colori cambiavano rapidamente. Riconobbe Masha quando entrò. Gli venne accanto con un bicchiere in mano e disse: «Sei ancora qui?» Udì le parole come da lontano. Stupefatto dal cambiamento nel suo senso dell'udito e dall'indifferenza che provava nei confronti di se stesso, Masha accostò una sedia e vi si lasciò cadere, quasi toccandogli un ginocchio con il suo. Chi è questa Tamara? Mia moglie è viva, si trova in America. Herman, tra noi è finita, ma credo che tu abbia il dovere di essere sincero con me, almeno per l'ultima volta. È la verità. Chi è Peshless? Non lo so. Rabbi Lampert mi ha offerto un impiego, direttrice di un istituto di convalescenza. Lo stipendio è di $75 la settimana. Che cosa farai di tua madre? Ci sarà un posto, là, anche perché per lei. Herman si rese pienamente conto di quello che significava tutto ciò, ma ormai non aveva più importanza. Sembrava che stesse sperimentando la disintegrazione delle membra, la descrizione sciassidica del conseguimento di uno stato di altruismo. Se soltanto potessi essere sempre così, pensò. Masha aspettava, poi disse: «Hai voluto che tutto questo accadesse. Hai organizzato le cose in questo modo. Mi rinchiuderò con i vecchi e i malati. Visto che non esistono conventi per le donne ebree, quello sarà il mio convento, fino alla morte di mia madre. In seguito porrò termine all'intera commedia. Posso portarti qualcosa? Non è colpa tua se sei nato ciarlatano». Masha se ne andò. Herman appoggiò il capo alla spalliera della poltrona. Il suo solo desiderio era quello di sdraiarsi in qualche posto. Sentì parlare, ridere, camminare, un acciottolio di piatti, di bicchieri. Poi, a poco, la confusione che aveva nel cervello diminuì. La stanza smise di girare, la poltrona tornò a poggiare su una base solida, la sua mente si reintegrò. Rimanevano soltanto la debolezza delle ginocchia e il sapore amaro in bocca. Herman pensò a Peshless, a Yasha Kotick. Appariva chiaro che, anche se fosse sopravvissuto, non avrebbe mai più potuto lavorare per Rabbi Lampert. In tutto quel tumulto esisteva un piano architettato dai poteri che dominavano le cose umane. Il rabbino stava ovviamente cercando di togliergli Masha. Non avrebbe mai pagato $75 alla settimana a una donna priva di preparazione e di esperienza per un impiego di quel genere. Né si sarebbe addossato per giunta il mantenimento della madre di lei, una spesa di altri $75 alla settimana, se non di più. Herman ricordò un tratto quello che aveva detto Yasha Kotick di Moshe Lefeifer. La festa aveva distrutto, una volta per tutte, le poche illusioni su Masha, cui egli ancora si avvinghiava. Aspettò a lungo e Masha non tornò. «Chissà, potrebbe essere andata a chiamare la polizia», fantasticò. Immaginò come sarebbero arrivati gli agenti per arrestarlo, per mandarlo a Ellis Island e poi riportarlo in Polonia. Davanti a lui si trovava il signor Peshless. Lo fissava, la testa reclinata da un lato, Poi disse in tono scherzoso: «Ah, sì che è qui! La stanno cercando!» «Chi?» «Il rabbino, la moglie. La sua mascia è una donna graziosa, piccante. Ma dove va a trovarle? Senza offesa, ma lei a me sembra uno zero!» Herman non rispose. «Come ci riesce? Anche a me piacerebbe sapere il modo!» «Signor Peschles, lei non ha bisogno di invidiarmi.» «Perché no? A Brooklyn una gentile si è convertita per amor suo. Ora qui ha una moglie bella come un quadro. E Tamara non è certo da disprezzare. Non intendevo nuocerle in alcun modo, ma ho parlato a Rabbi Lampert della gentile che si è convertita per lei. E ora lui è completamente confuso. Mi ha detto che sta scrivendo un libro per lui. Chi è questo Yasha Kotick? Non lo conosco affatto.» «Non lo conosco nemmeno io.» «Sembra che sia molto amico di sua moglie. Il mondo è pazzesco, non è vero? Quanto più uno vive, tanto più vede. Eppure, nonostante tutto, bisogna essere un po' più prudenti qui in America. Per anni non succede niente, e poi il male è fatto. C'era un tempo un ricattatore che frequentava le persone più altolocate, governatori, senatori, chi più ne ha più ne metta. A un tratto qualcuno cominciò a mettergli i bastoni tra le ruote e adesso sta marcendo in prigione, e presto lo rispediranno in Italia, da dove è venuto. Non che voglia fare confronti, Dio me ne scampi, ma per lo zio Sam la legge è legge. Il consiglio che le do è questo: perlomeno non le tenga nello stesso stato. Tamara è una donna che ha sofferto. Cercai di combinarle un matrimonio, mi disse che era sposata con lei. Naturalmente è un segreto e non lo riferirò a nessuno.» «Io non sapevo che fosse viva.» «Eppure disse che dall'Europa aveva mandato un annuncio al comitato misto da pubblicare anche su una giornalata. Probabilmente lei non legge i giornali.» «Sa per caso dove posso trovare il mio cappotto?» disse Herman. «Voglio andarmene, ma non riesco a trovarlo.» «Ah, è così! Tutte queste donne è riuscito a scovarle, ma non trova il cappotto. Scommetto che è un grande attore anche lei. Non si preoccupi, nessuno glielo ruberà il cappotto. Immagino che si trovi nella camera da letto. Nessuno a New York dispone di armadi sufficienti per appendere tutti i cappotti degli invitati a un ricevimento. Ma perché tutta questa fretta? Certamente lei non se ne andrà senza sua moglie. Ho saputo che il nostro rabbino le ha offerto un ottimo impiego. Fuma? Di tanto in tanto. Tenga, prenda una sigaretta, distende i nervi.» Il signor Peschles si tolse di tasca un portasigarette d'oro e un accendino anch'esso d'oro. Le sigarette erano di importazione, più corte di quelle americane, con l'estremità dorata. «E del resto, perché preoccuparsi dell'avvenire?» continuò. «Nessuno sa che cosa gli porterà il domani. Chi non approfitta di quello che può avere nel presente rimane a mani vuote. Che cosa è accaduto a tutti i grandi patrimoni d'Europa? Sono diventati mucchi di cenere.» Il signor Peschles aspirò e soffiò fuori anelli di fumo. In un minuto la sua faccia invecchiò, divenne malinconica, aveva l'aria di rispecchiare qualche sofferenza interiore, per la quale non poteva esserci rimedio. «Sarà bene che ne vada a vedere che cosa succede là», disse, additando la porta. Herman, solo, rimase seduto a capochino. C'era una copia della Bibbia sullo scaffale accanto alla poltrona. Si sporse e la prese, sfogliò le pagine e trovò i salmi. «Abbi pietà di me, o Signore, perché sono in angustia. Si consuma per cordoglio il mio occhio, l'anima mia e le mie viscere. Nella tristezza si consuma la vita mia e i miei anni. Tra i sospiri vien meno, per mia colpa, la mia forza e si consumano le mie ossa. Sono divenuto un obbrobrio per tutti i miei nemici, una cosa spregevole ai miei amici e il terrore dei miei conoscenti.» Herman lesse le parole. Come poteva essere che quelle frasi si adattassero a tutte le circostanze, a tutte le età, a tutti gli stati d'animo, mentre la letteratura secolare, per quanto ben scritta, col passare del tempo non è più pertinente? Masha entrò, barcollando, evidentemente ubriaca. Portava un vassoio e un bicchiere di whisky. Era pallida all'improvviso, ma gli occhi le splendevano di derisione. Con gesti incerti, posò il vassoio sul bracciolo della poltrona di Herman. «Che cosa stai facendo?» gli domandò. «Leggi la Bibbia, schifoso ipocrita!» «Masha, mettiti a sedere.» «Come sai se voglio mettermi a sedere? Forse quello che desidero in realtà è sdraiarmi. Ripensandoci, credo che mi metterò addosso a te.» «No, Masha, non qui.» «Perché no? Lo so che è un rabbino, ma il suo appartamento non è mica un tempio. Durante la guerra, persino i templi non fermavano nessuno. Vi spingevano dentro le donne ebree? Questo lo facevano i nazisti. E chi erano i nazisti? Uomini anche loro. Volevano la stessa cosa che vuoi tu, che vuole Jascha Kotick, che vuole persino il rabbino. Forse tu ti saresti comportato esattamente nello stesso modo. Gli ebrei andavano a letto con un mucchio di donne naziste in Germania. Le compravano con un pacchetto di sigarette americane, con una tavoletta di cioccolata. Avresti dovuto vedere come le figlie della razza ariana si coricavano con i ragazzi del ghetto e come li abbracciavano, li baciavano. Alcune li sposarono addirittura. E allora perché attribuire tanta importanza alla parola nazisti? Siamo tutti nazisti, l'intero genere umano. E tu non soltanto sei un nazista, ma un vigliacco che ha paura della propria ombra. Masha cercò di ridere, ma ben presto ridivenne seria. Ho bevuto troppo. C'era una bottiglia di whisky e continuavo a versare. Avanti, mangia se non vuoi cadere morto di nedia. Sedette su una poltrona, tolse dalla borsetta un pacchetto di sigarette, ma non riuscì a trovare i fiammiferi. Perché mi stai guardando in quel modo? Non ci andrò a letto con il rabbino. Che cosa c'è stato fra te e Jascha Kotick? I miei pidocchi hanno dormito con i suoi. Chi è Tamara? Dimmelo una volta per tutte. Mia moglie. È viva, come ho già cercato di spiegarti. È la verità questa o stai continuando a menarmi per il naso? È la verità. Ma le avevano sparato. È viva. Anche i bambini? No, i bambini no. Bene, esiste un inferno che è eccessivo anche per Masha. E la tua Shisha sa di lei? Sì, è venuta a farci visita. Per me fa lo stesso. Credevo che una volta giunta in America mi sarei liberata di tutte le sozzure, ma a quanto pare sono capitata nel fango più lurido. Questa potrebbe essere l'ultima volta che ti parlo e voglio dirtelo. Tu sei il peggior impostore che abbia conosciuto in vita mia, e ne ho conosciuti di topi di chiavica, credimi. Dov'è tua moglie, la risorta? Mi piacerebbe conoscerla, perlomeno darle un'occhiata. Abita in una stanza ammobiliata. Dammi il suo indirizzo e il numero di telefono. A quale scopo, Masha? Va bene, te lo darò, ma non ho qui il taccuino degli indirizzi. Se sentirai dire che sono morta, non venire al mio funerale. Quando Hermann uscì e sentì il gelo feroce che faceva, qualcosa in lui cominciò a ridere, la risata che talora si accompagna all'infelicità totale. Un vento tagliente soffiava dall'Hudson, sibilando, ululando. Il gelo penetrò il corpo di Hermann in pochi secondi. Era l'una del mattino, non aveva la forza di percorrere il lungo tragitto fino a Coney Island. Rimase addossato alla porta, con la paura di muoversi. Se soltanto avesse avuto i soldi per un albergo, ma gli restavano meno di $3 in tasca e in nessun luogo si poteva avere una camera per $3, tranne forse nella Bowery. Doveva risalire e farsi prestare un po' di denaro dal rabbino? Di sopra c'erano invitati che avevano l'automobile e che, senza dubbio, avrebbero accompagnato a casa Masha. «No, preferisco crepare», borbottò, e cominciò a camminare verso Broadway. Il vento là era meno impetuoso, persino il gelo sembrava meno penetrante e la strada era più illuminata della West End Avenue. Aveva smesso di nevicare, ma di tanto in tanto un singolo fiocco scendeva oscillando o dal cielo o da un tetto. Hermann vide un piccolo ristorante aperto, si affrettò ad attraversare la strada e un tassì per poco non lo investì. L'autista gli urlò insulti. Hermann scosse la testa e girò la mano, non si disse scusa. Entrò, incespicando nel ristorante, a corto di fiato e irrigidito dal freddo. Là, nella luce e nel tepore, già servivano la colazione, sentiva un acciottolio di piatti, la gente leggeva il giornale del mattino, mangiando crostini abbrustoliti alla francese, con sciroppo, crema di avena con panna, crema di cereali con latte, cialde con le salsicce. Il solo odore del cibo fece sì che Hermann si sentisse svenire. Trovò un tavolino accanto alla parete e appese il cappello e il cappotto. Si rese conto di non aver ritirato lo scontrino e tornò alla cassa per spiegare. «Sì, sì, l'ho vista entrare», disse la cassiera. «Sembrava completamente gelato». Hermann ordinò al banco crema d'avena, uova, un panino e un caffè. L'intero pasto venne a costargli 55 centesimi. Mentre portava il vassoio al suo tavolo, le gambe gli tremarono e quasi non riuscì a reggerne il peso. Ma non appena ebbe cominciato a mangiare, la sua vitalità tornò. L'aroma del caffè era inebriante. Desiderava ora una cosa sola, che il ristorante restasse aperto tutta la notte. Un portoricano si avvicinò al tavolino per sparecchiare. Herman gli domandò a che ora chiudesse il ristorante e l'uomo rispose «Alle due». Di lì, a meno di un'ora, si sarebbe ritrovato sulla neve gelata. Doveva studiare qualcosa e prendere una decisione. Vide la cabina telefonica di fronte. Forse Tamara era ancora sveglia. Si trattava ormai della sola persona che non fosse in guerra con lui. Entrò nella cabina telefonica, inserì una moneta e formò il numero di Tamara. Una donna venne a rispondere al telefono e andò a chiamarla. «Spero di non averti svegliata, Tamara. Sono io, Herman». «Sì, Herman». «Dormivi?» «No, stavo leggendo il giornale. Tamara, mi trovo in un ristorante a Broadway. Chiudono alle due e non so dove andare». Tamara esitò un momento. «Dove sono le tue mogli?» «Non vogliono più rivolgermi la parola, nessuna delle due». «Che cosa stai facendo a Broadway, a quest'ora?» «Sono andato a un ricevimento dal rabbino». «Capisco. Vorresti venire qui?» «Fa un freddo cane. Mi sono infilata sulle gambe le maniche di un maglione. Il vento sibila in tutta la casa come se non ci fossero più i vetri alle finestre. Perché le tue mogli ce l'hanno con te? Ora che ci penso, perché non vieni qui? Pensavo di telefonarti domani. C'è una cosa della quale voglio parlarti. La sola difficoltà sta nel fatto che chiudono la chiave e la porta esterna. Puoi suonare il campanello, anche per due ore il portiere non si sogna nemmeno di venirti ad aprire. Quand'è che sarai qui? Scenderò io stessa ad aprire il portone». «Tamara, mi vergogno di disturbarti in questo modo. Il fatto è che non so dove andare a dormire e non ho i soldi per pagare una camera in albergo». «Ma come? Proprio adesso che tua moglie è incinta, ti ha dichiarato guerra?» «Viene istigata da tutti. Non che voglia rimproverarti, ma che bisogno avevi di dire di noi a Peshless?» Tamara sospirò. «È venuto all'ospedale e mi ha assediata con mille domande. Ancora non riesco a capire come sia riuscito a trovarmi. Si è seduto al mio capezzale e mi ha sottoposto a un interrogatorio, come se fosse stato un pubblico accusatore. Ha cercato persino di combinarmi un matrimonio. È stato subito dopo l'operazione, ero stordita. Ma che razza di gente è questa?» «Tamara, mi sono cacciato in un tale pasticcio che non rimangono più speranze. Sarà meglio che torni a Coney Island. A quest'ora, Herman, ti ci vorrà tutta la notte. No, no, vieni a casa mia. Non riesco a dormire, del resto. Rimango sveglia fino all'alba». Tamara stava per aggiungere qualcosa d'altro, ma la centralinista l'interruppe per chiedere un'altra moneta, che Herman non aveva. Disse a Tamara che sarebbe arrivato da lei al più presto possibile e riattaccò. Uscì dal ristorante e si diresse verso la stazione della Sotterranea, nella 79esima strada. Una Broadway deserta si stendeva davanti a lui, i lampioni splendevano luminosi, creavano in qualche modo un'atmosfera venale e festiva, misteriosa e fiabesca. Herman discese le scale della stazione. Aspettò un quarto d'ora, ma non apparve nessun treno, così come non si vide nessun altro passeggero. Le lampade splendevano abbaglianti, neve sottile come farina cominciò a filtrare attraverso una grata del soffitto. A questo punto si pentì di aver telefonato a Tamara. Sarebbe stato più savio da parte sua tornare a Coney Island. Perlomeno si sarebbe potuto godere qualche ora di sonno al calduccio, sempre che Jadwiga lo avesse lasciato in pace. Si rese conto che, per poter sentire il campanello, Tamara avrebbe dovuto vestirsi e aspettare al pian terreno nel gelido androne. I binari cominciarono a vibrare e un treno arrivò rombando. C'erano soltanto pochi uomini seduti nel vagone, un ubriaco che farfugliava e faceva smorfie. Piccole pozze d'acqua melmosa circondavano le scarpe degli uomini, che avevano il naso rosso e lucido a causa del freddo, e le unghie frastagliate e sudice. L'irrequietudine tipica delle persone che fanno della notte il giorno aleggiava nell'aria. Herman immaginò che le pareti, le lampade, i vetri dei finestrini, gli annunci pubblicitari, tutto fosse stanco del freddo, dello strepito, della luce cruda. Il treno seguitava a fischiare e a fare ululare la sirena di avvertimento, come se il macchinista avesse perduto il controllo o fosse passato con un semaforo rosso, rendendosi conto troppo tardi dello sbaglio. A Times Square, Herman percorse il lungo tunnel che conduceva alla Grand Central Station. Di nuovo dovette aspettare a lungo un treno locale diretto alla 18esima strada. Le altre persone in attesa sembravano trovarsi in una situazione analoga alla sua, uomini separati dalla famiglia, vagabondi che la società non riusciva ad assimilare né a respingere e le cui facce esprimevano l'insuccesso, il pentimento, il rimorso. Non uno di quegli individui era sbarbato o vestito a dovere. Herman li osservava, ma essi ignoravano lui e gli altri. Discese alla fermata della 18ª strada e percorse il tratto di strada, la lunghezza di un isolato, fino alla casa di Tamara. I palazzi d'uffici erano bui, abbandonati. Si stentava a credere che appena poche ore prima sciami di persone vi avevano lavorato. Al di sopra dei tetti il cielo era pervaso da una luce tetra, senza stelle. Herman salì i pochi gradini, scivolosi, fino alla porta a vetri della casa di Tamara. Vide Tamara nella luce fioca di un'unica lampadina elettrica. Lo aspettava con un cappotto gettato sulle spalle. Sotto l'orlo di quest'ultimo si vedeva la camicia da notte. Aveva la faccia grigia per la mancanza di sonno. Era spettinata. Aprì la porta silenziosamente e salirono le scale a piedi, perché l'ascensore non funzionava. «Da quanto tempo stavi aspettando, Tamara?» «Che cosa importa? Sono abituata ad aspettare.» Gli sembrava incredibile che lei fosse sua moglie, quella stessa Tamara conosciuta per la prima volta quasi 25 anni prima a una conferenza il cui argomento era stato «Può la Palestina risolvere il problema ebraico?». Al terzo piano Tamara si fermò. «Oh, le mie gambe», disse. Anche a lui dolevano i polpacci. Tamara riprese fiato, poi gli domandò. «Hai già trovato un posto in ospedale?» «Jadwiga, vuoi dire?» «Sì, si sono occupate di tutto le vicine, ma il bambino è tuo, in fin dei conti.» Egli avrebbe voluto dirle «E con questo? Ma tac».